9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qui in studio. Il tema della giornata che il gatto Oscar vi propone è un tema che vi potrà sembrare un po' paradossale, non lo è per niente. Parleremo di arte contemporanea e tenteremo di farlo con degli ospiti naturalmente molto più versati di me, ma avendo ben in testa che ci sono dei criteri attraverso cui l'arte contemporanea descrive molto meglio di tutto il resto, di tutte le altre discipline, arti ed espressioni, i paradossi ma insieme le interessanti profondità dei tempi in cui viviamo, e quindi tenteremo di farlo non per addetti ai lavori ma per acchiappare l'attenzione di tutti voi che siete la mattina a casa, state facendo altro e vi chiederete a questo punto bah, e molti di voi saranno tentati di girare canale. Tenteremo invece di tenervi ben fermi su la riflessione di che cosa vuol dire la possibilità che l'arte contemporanea ci offre di riflettere sui paradossi, i cortocircuiti, ma anche i collassi temporali del nostro tempo. Non è affatto uno strumento che sottolinei meno della politica e dell'economia le difficoltà e le straordinarie possibilità dei tempi in cui viviamo. Allora, prima di presentare i nostri ospiti, io vi propongo alcuni numeri su cui riflettere. Primo, lo sapete che è in corso un'asta a Milano in cui per esempio si può comprare un Francesco Guardi, stiamo parlando, grande vedutista veneziano, scuola dei Bellotto e così via, e cui si chiedono 200.000 euro per questo quadro, e Gesù tra i dottori di Luca Giordano, un grandissimo del 600 napoletano eccetera, in cui si chiedono 150.000 euro. Stiamo parlando di quadri molto importanti. Vi propongo invece le cifre a cui sono state recentemente, in questo anno, pochi mesi fa o poche settimane fa o pochi mesi fa, battuti alcuni pezzi di arte contemporanea di autori su cui sono disposto a scommettere il 99% di voi in ascolto non sa neanche chi sia. Allora, per esempio, è stato pagato la bellezza di 2.635.578 euro, ripeto 2.635.578 euro, un'opera di Richard Prince è un grande, ma scommetto che a molti di voi non dica molto. È un'opera del 2003, un getto d'inchiostro e acrilico su tela di 162x106, e ripeto, è stato battuto a quel prezzo a Sotheby's, questo era novembre del 2008, la crisi era già cominciata. È stato battuto a 697.000 euro, questo è avvenuto invece a febbraio di quest'anno, un'opera sempre in stampa in gelatina d'argento 153x182 di Hiroshi Sugimoto. Non so quanti di voi sappiano chi è Hiroshi Sugimoto. Vi faccio un altro esempio: 82.000 euro per una piastrella dipinta di 71x10 cm, una piastrella dipinta di Wang Jin, e anche di Wang Jin sono disposto a credere che non molti di voi sappiano chi sia. Potrei fare un lungo elenco di fotografi cinesi che piazzano le loro opere nelle aste londinesi americani a botte di centinaia e centinaia di migliaia di euro each one, ciascuna, cioè più di quanto oggi nelle aste serva molto più per aggiudicarsi una ottima opera di uno straordinario maestro italiano del Rinascimento, ma del 600 di sicuro. Allora, prima questione, i prezzi dell'arte contemporanea. Seconda questione, tra pochi giorni, il 4 di novembre, parte la più grande manifestazione, quella che è diventata più di successo, capace di mobilitare più folle in Italia, di arte contemporanea, cioè Artissima a Torino. Che cos'è Artissima? Ne parleremo con il suo direttore, che avremo come ospite, ma è un fracco di roba, perché sono 45.000-50.000 persone che si muovono in quei quattro giorni da tutta Italia per andare a riflettere su che cos'è Artissima. Un po' di numeri li vedremo, capiremo che cos'è oggi la più grande manifestazione di arte contemporanea. Terza questione: che cosa vuol dire organizzare l'arte contemporanea per proporla nelle grandi gallerie? Ecco, ne parleremo con un direttore. Che cosa vuol dire collezionare l'arte contemporanea in questa specie di cosa che ai non addetti ai lavori sembra una follia dei nostri tempi? Ecco, allora, gli ospiti chi sono? Sono di questi tre filoni. Abbiamo innanzitutto Andrea Bellini, il direttore di Artissima, cioè della Fiera Internazionale d'Arte Contemporanea, che parte a Torino tra pochi giorni. Buongiorno Bellini. Buongiorno. buongiorno a voi. Abbiamo Danilo Ecker, che è direttore della Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea GAM di Torino, che da poco ha completato la ripresentazione, attingendo da tutto il suo vasto patrimonio, una delle più ricche come opere che c'ha in magazzino, per proporre una rilettura di quello che c'ha in magazzino, che è una rilettura quindi anche dei nostri tempi dell'arte contemporanea. Buongiorno Ecker. Buongiorno. E poi Flavio Albanese, che io ringrazio, il direttore di Domus, che abbiamo chiamato qui non per parlare della sua meravigliosa rivista, ma per parlare del motivo per cui, insomma, negli anni ha dedicato molto tempo e, bisogna dirlo, anche un bel po' di risorse a comprare, e ci spiegherà con che criteri. Buongiorno Albanese. Buongiorno a voi. Allora Bellini, cominciamo a spiegare, ripeto, ai non addetti che cos'è il segreto vero del successo di Artissima. Io ricordo a chi ci ascolta che le manifestazioni come Artissima partono da un'idea. L'idea è quella di coinvolgere un numero molto elevato e molto significativo, innanzitutto di gallerie, perché bisogna, questa cosa si fa assemblando insieme chi organizza il mercato e chi sonda le nuove tendenze e i nuovi artisti, quindi gallerie da tutto il mondo. Primo, secondo, organizzare una serie di eventi che servono come percorso di lettura sui maggiori artisti. Terzo, coinvolgere il più possibile le istituzioni culturali della città. E quindi da questo punto di vista, mi scusi Brini se faccio sempre passi indietro, ma lei deve capire che molta gente non ha l'idea e rimane con un punto interrogativo. Allora, questa edizione di Artissima, quali sono i punti forti? Beh, diciamo allora, innanzitutto Artissima è una fiera d'arte contemporanea, perché è un mercato, arrivano galleristi da tutto il mondo e portano le opere, insomma, degli artisti con i quali lavorano, e poi abbiamo una serie di collezionisti, di appassionati d'arte che arrivano in fiera e trattano le opere e le comprano. Le prime fiere d'arte sono state organizzate in Germania, la prima in assoluto nasce a Colonia nel 67, e sono state, insomma, per una trentina d'anni essenzialmente dei semplici mercati come qualsiasi altra fiera. Poi diciamo negli ultimi 4-5 anni stanno, come dire, le fiere si stanno trasformando e stanno diventando dei grandi eventi culturali, insomma, sono capaci di attirare attenzione e di creare una manifestazione che può, come dire, suscitare un interesse che va anche al di là del mercato. Per cui, non so, io credo che Artissima, oltre ad essere un mercato dell'arte, mi piace pensare che sia un discorso attorno all'arte, perché organizziamo conferenze, mostre, quest'anno facciamo un grande progetto sul teatro. E questo progetto sul teatro coinvolge quindi i maggiori teatri di Torino e ha un titolo abbastanza singolare. Sì, il titolo è Accecare l'ascolto, ci siamo un po' ispirati al teatro di Carmelo Bene. Lavoriamo con 5 teatri di Torino e portiamo 15 artisti a Torino, internazionali, che hanno lavorato nel tempo sul rapporto tra arti visive e teatro, insomma una sorta di territorio di mezzo tra le due discipline. Tentiamo di spiegare un secondo perché le faccio sentire un brano classico che individua, per così dire, un tema, e poi richiamerò anche le parole dell'attuale ministro che agli occhi di molti rappresenta il punto interrogativo dell'arte contemporanea. Sentiamo un secondo, è un grande cinema italiano che da questo punto di vista rappresenta un pochino il punto interrogativo. Sì, sì. Un tratteggio multiforme. Guarda. Ella, sedia con corpo adagiato. Un'opera vivente. Un'opera originale, cara. Io sui 18 milioni la comprerei. A me mi sembra bello. Vedi quel corpo? Sembra una sfera che prima si sprofonda verso il basso e poi si innalza piano piano come sospinta dal vento che muove la palla. Agù, qui a Biennale c'erano niente a mangiare, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco. E porca mignotta! Beh, abbiamo usato. Ma chi sono questi? Chi? Che stanno a fotografare? Chi? Questa è la mia signora. Che fotografate? Ma non glielo potevi dire tu? E chi glielo dire? Che non sei una statua. Che è mica la donna nuda questa? Are, me lo compra per 18 milioni. 18 milioni? Beh. Mazzo, ma non è troppo. Ecco, era chiaramente Alberto Sordi, però questa espressione un po' da galleria, per così dire, del cinema italiano non è in realtà molto diversa se riflettiamo sulle parole che furono pronunciate pochi mesi fa dal ministro Bondi, ministro dei beni culturali attualmente in carica, che diceva: io veramente devo dire la verità, quando vado a un museo d'arte contemporaneo, a gallerie o a manifestazioni di arte contemporanea, il più delle volte non ci capisco un'acca. Allora Bellini, Come si esce da questo, da questo, da questo limite? Ma guardi, io se vado a visitare una mostra di matematica o di fisica non ci capisco un H lo stesso, per cui, ma credo che non sia un problema della matematica, credo che sia un mio personale problema, per cui se il ministro della cultura non capisce l'arte contemporanea forse dovrebbe così iniziare un processo di sensibilizzazione verso questo tipo di linguaggio. Io vorrei sottolineare un fatto, l'arte è sempre stata contemporanea, quando Giotto dipingeva credo fosse vivo, per cui era un artista contemporaneo, era un artista di successo, strapagato a Firenze, e per cui voglio dire, io credo che come con, succede con le altre discipline, in fondo anche per comprendere il vino, quando lo si beve bisogna conoscerlo, altrimenti se non conosciamo il vino, non abbiamo idea di che cosa sia la qualità, anche nel vino non riusciamo a distinguere insomma quelli che sono i prodotti eccellenti dai prodotti mediocri. Anche con l'arte in qualche modo è così, bisogna cominciare a guardarla, ad entrarci, a, a familiarizzare. Però io qui la interrompo e chiedo a Ecker di venire in aiuto, perché ai tempi, diciamo così, lei diceva Giotto, ma insomma ai tempi in cui esistevano dei canoni iconologici di interpretazione teologica dell'immagine, perché l'arte sacra è stato quello per secoli e secoli, insomma esistevano dei codici imperanti, per cui anche a coloro che non avevano mai posto piede in una scuola del trivio e del quadriglio era abbastanza evidente come un artista, soprattutto nel figurativo eccetera eccetera, gli proponeva una lettura di un tema magari arato migliaia di volte, ma da un piccolo particolare nell'angolo di una tela o nell'angolo di un affresco si capiva qual era. Il problema è che nella destrutturazione, nello smontaggio complessivo orizzontale e verticale che il Novecento ci consegna del mondo in cui viviamo, la destrutturazione dei linguaggi, anzi il fatto che il linguaggio prevale e il segno prevale sul contenuto, tutto c'è, tutto ciò che è il Novecento, le avanguardie, Francoforte, il post-Francoforte, quello che rappresenta in filosofia, tutto questo rappresenta l'impossibilità di un canone o di un criterio che prevale sugli altri, che orienta anche gli sprovveduti e gli provvisti dei mezzi tecnici dell'espressività figurativa o non figurativa. Allora, in tutto questo, Ecker, sapendo che noi abbiamo alle spalle un secolo di quel tipo, quindi questo è un po' secondo me il limite del ministro che fa finta di non saperlo, sapendo che abbiamo questo alle spalle, come si organizza l'idea di una galleria e di un museo quando l'arte contemporanea vive proprio, nasce, riproduce e moltiplica l'irriproducibilità di un canone organizzato? Ma intanto voglio solo sorridere insieme a lei con la piccola citazione del video del film di Alberto Sordi, che è stato un vero must per quanto riguarda anche noi che ci occupiamo d'arte. E poi in effetti lavorare per un museo, lavorare nella collezione vuol dire lavorare con la propria spina dorsale, col proprio patrimonio, con la propria storia, e non è facile. Non è facile perché sostanzialmente i percorsi tradizionali prevedono appunto uno sviluppo delle proprie collezioni in ambito storico. Diciamo che l'approccio tradizionale all'arte avviene su un canone che è il canone storico, per cui si è soliti sviluppare la lettura della storia dell'arte in una sorta di evoluzionismo segnico, iconografico, storiografico, eccetera. E oggi invece il pubblico è abituato dalla televisione, da altri, dai mass media, dalla vita quotidiana, a una sorta di lettura trasversale, in qualche modo balbuziente se vogliamo, nel andare e ritornare per vari aspetti. Quindi quello che abbiamo cercato di fare noi alla Galleria d'Arte Moderna di Torino è stato quello di impaginare il nostro patrimonio. Il lapsus tradisce che Ecker nella vita ormai da un paio di decenni almeno ne ha fatti parecchi, cioè di responsabilità, di riorganizzazione, quindi da Trento, Bologna, Roma, adesso Torino, quindi il lapsus vuol dire un po' questo. Ogni tanto sbaglio le città, è vero. Quindi abbiamo ordinato in area tematica quelle che sono le nostre collezioni. È la prima volta che si fa in Italia. È stato già fatto dalla Tate a Londra una decina d'anni fa, lo ha ripetuto poi il MoMA a New York, oggi lo sta facendo anche Reina Sofia. In Italia è la prima volta. In particolare noi abbiamo coinvolto altri specialisti, altre discipline diverse, quindi abbiamo coinvolto quattro università italiane, abbiamo poi chiamato altri quattro storici d'arte a rileggere, a tradurre nel lessico della storia dell'arte quelle che sono le indicazioni tematiche, e abbiamo impaginato questa nuova collezione in un ordine che appunto non ha più un ordine cronologico. È un modo, è un tentativo di avvicinare il pubblico all'arte contemporanea. Andrebbe però precisato che sostanzialmente, anche quando l'arte aveva un sviluppo, diciamo, narrativo più semplice, quasi mimetico, i problemi non erano poi molto differenti. Se pensiamo che Le nozze di Cana, che sono uno dei grandi capolavori di Paolo Veronesi, che oggi è esposto al Louvre, quando è stato realizzato ha avuto la conseguenza di un processo perché l'autore si era permesso di mettere accanto alla mensa di Cristo delle scimmiette, degli armigeri, delle figure che nulla avevano a che vedere con la realtà ovviamente palestinese di 2000 anni fa. No, certamente l'arte è fatta di rotture di canoni, questo non c'è dubbio. Chiedo un secondo in questo momento ad Albanese, con quale criterio è possibile scegliere nella diversificazione degli artisti emergenti, dei tanti presentati alle mostre, nelle sezioni speciali di eventi come Artissima? In quale modo lei si è orientato nella vita per scegliere tra chi valeva pochi soldi, veniva proposto, non ho detto valeva sbagliando, veniva proposto a pochi denari, tra chi invece era già diventato un grande nome e valeva molti denari, e come si è mosso? A me fa molto impressione, per esempio, pensare che in meno di un anno e mezzo tra il 2007 e la fine del 2008 Gerhard Richter, che insomma certo è un straordinario artista dei nostri tempi, però è riuscito a vendere per più di 160 milioni di dollari in meno di un anno e mezzo. 160 milioni di dollari mi sembrano una bella cifra, per così dire, con tutto rispetto per Gerhard Richter e per chi ama Gerhard Richter. Allora la domanda è: lei come si è orientato in questo? Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di arte contemporanea perché tra pochi giorni comincia Artissima. Abbiamo sentito il suo direttore Andrea Bellini, abbiamo sentito Danilo Ecker, direttore della Gamma Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Avevo chiesto a Flavio Albanese, direttore di Domus, bellissima rivista che col suo arrivo da occuparsi solo di architettura d'interni e progettazione eccetera eccetera ha dato spazio proprio anche al tema dell'arte contemporanea come aspetto fondamentale per arredare le case, e guardate che bastano pochi soldi, non ci vogliono chissà quale centinaia di milioni di euro. Però io ho chiesto ad Albanese, prima che arrivasse la pubblicità, lui come si è regolato nella vita, è un noto grande collezionista, per capire come si fa a distinguere tra chi è proposto a pochi euro e chi è diventato già iperaffermato, anzi secondo me viene strapagato, e come si fa a capire dove c'è l'affare. Certo conta quello a cui uno piace, ma ci sarà anche una modalità per capirlo. Lui come si è regolato, Albanese? Allora, dicevo, non ho mai comprato in vita mia, escluso un caso, ho commissionato un'opera di un artista noto, ma d'altronde credo che nessuno faccia scorribande sul MIB30 quando vuole fare investimenti intelligenti e sofisticati, no? Cioè, si riferisce a un altro tipo di mercato. Guardi, Albanese, che io conosco molta gente che ha molti denari che compra arte contemporanea proprio facendo così, come se facesse invece una scorribanda sul MIB30, vanno a vedere la crescita delle quotazioni medie nelle aste o nelle fiere negli ultimi due anni e comprano solo quello che costa di più. Non avrà quella soddisfazione di sicuro che ho avuto sempre io, che ha avuto e che avrà chi invece ha il coraggio di andare a cercare l'autore sconosciuto, nel senso che evidentemente che rischio si alza, ma si alza come in qualsiasi operazione di tipo finanziario, se vogliamo parlare, visto che lei l'ha, come dire, virata sul problema della finanza. Poi è chiaro che c'è di mezzo la passione, ma questo per un attimo ignoriamolo, no? Se lei invece ha dimestichezza con l'arte, la frequenta e anche, diciamo, anche un po' di umiltà per sentirne i sussulti più leggeri, allora sicuramente farà grandi affari. Le dico con grande preoccupazione che ho alcuni amici, sì, in grandi studi professionali, insomma, che maneggiano, beati loro, a differenza di me, i flussi di denari, sì, che negli ultimi 3-4 anni, secondo me mal consigliati da mercanti un po' discutibili, gli hanno fatto comprare tante di quelle fotografie cinesi a prezzi che io gli faccio i miei auguri, perché dico: voglio vedere quando le rivenderete, che cosa diavolo vi farete. Ma è d'accordo che c'è un pochino questo fenomeno o no? Beh, io non credo, il fenomeno riguarda soltanto quelli che vanno chinati sulla schiena a guardare, ecco, il nome dell'autore, e quindi guardano se lo riconoscono o meno e poi comprano. Non sono questi quelli, credo, che frequentino luoghi come Artissima, ad esempio, che è diventata una sofisticata fiera dove va chi veramente sa, oppure chi vuole farsi coinvolgere, ma con grande disponibilità. Però mi dia una soddisfazione, qualcuno di totalmente sopravvalutato, lei che è fuori dal giro, per così dire, fa sopravvalutazione, c'è o no? Ma i sopravvalutati sono quelli che poi... Facciamo qualche nome. Ma io credo che qualche sopravvalutato ci possa essere, ma c'è stato forse, non so, ad esempio uno, ma se penso a quello che ho collezionato io, forse uno come Murakami a un certo punto era sopravvalutato, ma lei ha citato tre cose, ha citato sicuramente il più grande, il grande Richard Prince, che non credo sia affatto sopravvalutato. No, quello non lo è, quello. Ma neanche Sugimoto, ma neanche Gerhard Richter, nonostante i suoi 160 milioni, sono un autore di statura e di misura irraggiungibili in Europa, forse uno dei due o tre più grandi autori, meglio di Damien Hirst e di altri supernoti inglesi. Però ripeto, visto che lei si occupa di occupate un canale che si occupa proprio di finanza e comunque di economia a tutti i livelli, fate l'esempio. No, io le, guardi, io le faccio una domanda. Lei crede davvero che Yuan Minyun, quindi un altro cinese, eccetera, un olio di 90x180 venduto, un olio del 2001 venduto a 800.000 euro a Christie's a Londra, sto parlando del febbraio di quest'anno, sia un buon prezzo? Io, francamente, Giannino, mi sta parlando di una persona che non conosco nemmeno. Ecco. Allora, faccio direttore di una rivista, mi occupo di arte da quando avevo 17 anni e non avevo un becco di un quattrino e pagavo le opere a 6.000 lire al mese, a piccole rate di 6.000 lire, e comprai in quell'occasione un disegno di Hockney che poi ho rivenduto a 400-500 volte il suo valore, e non so di chi stia parlando. Questo le dà la conferma che bisogna non essere né sprovveduti come in tutti i mercati, né tantomeno essere, mi permette anche quasi di usare un termine un po' supponente. Ecco. Allora, se ci fosse un po' di modestia invece, si frequentassero le gallerie, si avesse la voglia di frequentare anche le fiere come Artissima, alle prime volte non capendo, ma poi auguro anche al nostro ministro di cominciare a capire, perché mi sembra fondamentale che succeda, forse queste cose non si commetterebbero. E il ministro poi tra i politici in buona compagnia, leggo alcune altre dichiarazioni, Maurizio Gasparri: rispetto tutti per non apparire ignorante, ma o sono stupido io o sono stupidi loro. Non voglio rispondere su quale delle due alternative. Oppure Luigi Nicolais, questo ex ministro del centro-sinistra, quindi entrambi. Io ogni tanto alle mostre ci vado ed è vero che molti fingono di capire, tra i quali anch'io. Ecco, questo è il punto. Adesso io vi proporrei di ascoltare alcuni nostri ascoltatori e poi torniamo con Bellini e Decker a far rispondere a loro ai dubbi degli ascoltatori, tra i quali ci saranno alcuni appassionati ma anche alcuni che invece condividono il punto interrogativo. Cominciamo da Adriano da Torino. Prego, Adriano. Buongiorno a tutti. Il mio intervento era la citazione, una cosa non mia, però un paradigma, cioè se domani ci fosse un cataclisma e tutto venisse sepolto e fra 200 anni degli archeologi andassero a scavare e trovassero l'orinatoio di Duchamp e la Pietà di Michelangelo, che cosa verrebbe considerato come arte? Beh, molto, per dire che però lei mi cita cose di tempi diversi, quindi sa, l'arte verrebbero considerate espressioni di tempi diversi. E poi questo non è un paradigma, questo è un paradosso, Adriano. Su. Paradosso, ha ragione, il punto fondamentale è che probabilmente l'arte concettuale, quando si estremizza, prevale il concetto è molto più volatile dell'oggetto. Chiaro, però l'oggetto rimane e il concetto non c'è più. Vede l'oggettività di cui siamo tutti figli, l'idealismo, terribile cosa. Alberto da Milano, prego. Buongiorno a tutti e agli illustri ospiti. Allora, confesso anch'io che faccio una certa fatica da qualche anno a inserirmi nel capire l'arte moderna, però ci provo. Ho visitato Londra, ho visitato Barcellona, il Reia Sofia a Madrid con la mia famiglia e abbiamo visto delle cose belle, visto delle cose che non comprendiamo. Però quello che trovo strano è vedere degli autori italiani, dico Rotella, Schifani, Fiume, proposti o nei mercatini dell'antiquariato, e qui possiamo veramente sclerare su queste situazioni qua, o alla televisione, in quelle televisioni commerciali che vendono opere con sconti del 20, del 30%, oggi la grande occasione, il quadro da 300.000 euro lo vendiamo a 100.000 euro. Dove comincia e dove finisce il confine del valore di queste opere qui? Non tanto per i soldi, ma quanto per l'opera in se stessa. Il volerla svendere perché non c'è mercato in questo momento qui o perché ne hanno di troppe da vendere, questo non riesco a capirlo. Grazie Alberto. Fulvio dalla provincia di Venezia, prego Fulvio. Buongiorno e grazie di proporre anche questi temi che ci astraggono un po' dal quotidiano. Cerco di essere molto breve. Ma ci migliorano dal quotidiano, guardi, non ci astraggono, ci migliorano. Mi dia retta. L'astrazione a volte è. Mi dia retta che tra questo e il comitato economico della PDL, questo ci migliora. Il comitato economico non credo. Sicuramente. Allora, no, due cose molto veloci. La clip di Alberto Sordi è stupenda, però mi fa ridere il gallerista che dice anche: ah, per noi è diventato un must. Quando alla Biennale che io frequento, essendo di Mestre, è ancora così, molte sale sono ancora così, eppure essendo diventato un master, Alberto Sordi è attualissimo tuttora. Io chiedo, dov'è la ricerca della bellezza, del sacro, dell'assoluto nell'arte contemporanea? L'assoluto, mamma mia. Voglio dire, io farò rispondere gli esperti, ma ci rendiamo conto di che cosa la filosofia, l'ermeneutica, tra 150 anni ci dice di questo termine che lei ha appena pronunciato, l'assoluto? Cioè, ci rendiamo conto di quante centinaia di milioni di vittime, tanto per rimanere alla storia della politica, negli ultimi 100 anni, lo dico con tutte queste S apposta, l'assoluto ha prodotto. E ma noi cerchiamo nell'arte ancora anche le pestilenze. Ma appunto, le dico che l'assoluto è un termine da maneggiare con grande circospezione. Però basta, non devo rispondere io. Ancora Fabio da Milano e poi torniamo ai nostri ospiti. Prego Fabio. Buongiorno dottor Giannino, complimenti per la trasmissione. Poi vede che non è che siamo andati via tutti, c'è molta gente che la sta seguendo oggi. No, questo mi rende felice, anche perché sennò mi cacciano domani, quindi sa. Allora, non si faccia cacciare, che è troppo bravo lei. Volevo dirle, io sono sempre stato sempre un po' snobbato l'arte contemporanea e quest'anno sono andato a New York, ho visitato il MoMA e ci sono delle cose che si fa veramente fatica a comprendere. Ma le faccio una domanda, non è il fatto che magari con l'arte figurativa, cioè da Giotto, Leonardo, Caravaggio, cioè vedendo immediatamente la figura e provando l'emozione, si faccia molto più fatica invece a ricercare il significato in qualcosa di tipo due righe, quattro punti su una tela di 2 metri per 4? Ottima domanda Fabio. Adesso chiediamo a Bellini di rispondere a random un po' a queste provocazioni. Io faccio ancora alcuni numeri di Artissima, invitando tutti coloro che saranno incuriositi, pur credendo di non capire abbastanza, ad andarci. Artissima quest'anno sarà 141 gallerie italiane e straniere, 19 paesi coinvolti, oltre il 50% di espositori stranieri, 17 istituzioni pubbliche artistiche coinvolte. Sono 16 anni che c'è Artissima, ci sono 3 sezioni speciali, le New Entries, Constellation e Present Future, con 18 artisti emergenti, 3 premi, Lilli, Present Future, Guido Carbone ed Ettore Fico, poi tantissimi altri numeri, più di 1000 giornalisti accreditati, questo mi farebbe quasi diffidare, però questa è la misura del successo di chi la dirige, cioè Andrea Bellini. Prego Bellini, almeno ad alcune di queste domande tenti di dare una risposta. Beh, rispondo volentieri, sono stati toccati dei punti diversi, vorrei sottolineare parlare di tre cose. Allora, un'opera ovviamente ha un valore e un prezzo, diciamo, no? Allora, valore e prezzo coincidono? Chi lo può decidere se il prezzo di un'opera riflette il vero valore di un'opera, inteso come appunto valore linguistico, di capacità di innovazione linguistica di un'opera? Beh, io credo che il tempo deciderà se il valore e il prezzo delle opere d'arte, insomma, coincidevano, insomma. Veramente dobbiamo aspettare che il tempo e la storia in qualche modo poi tornino sui contenuti, sui lavori e poi ridistribuiscano appunto l'importanza dei lavori. È un po' paradossale il fatto che molti artisti contemporanei valgono di più di Pontormo, no? E bisogna interrogarsi su questo, ma ci sono anche delle spiegazioni in realtà forse non troppo complesse per capire questo paradosso, nel senso che per esempio il mercato di Damien East o di Richard Prince sono dei mercati aperti rispetto a quello di Pontormo, cioè le opere disponibili di Pontormo sul mercato non sono poi molte. mentre Richard Prince da Venice mi cita uno dei miei prediletti nella storia della pittura, anche, però pochi mesi fa, perché per me Pontormo e Rosso Fiorentino sono, insomma, ma detto lui, questo anche per me lui e tutti i primi manieristi anticlassici fiorentini sono degli artisti che adoriamo. No, ma questo per capire, per dire che insomma esistono anche delle dinamiche economiche per cui i mercati di questi artisti contemporanei sono aperti. Questi artisti giovano di un effetto così di star internazionale anche rispetto al collezionismo d'arte, per cui insomma ecco si creano un po' questi paradossi. Poi bisogna vedere, io credo che sia nel caso di Adam Inist che nel caso di Richard Prince ci troviamo di fronte a degli artisti che hanno fatto, che stanno facendo la storia dell'arte, degli artisti che non hanno niente da invidiare a Caravaggio o appunto a Rosso Fiorentino, io questo lo credo veramente, insomma, perché la storia dell'arte è la storia dei linguaggi artistici. Allora, come capire l'importanza degli artisti del Novecento? La si può capire appunto inserendola nel contesto della storia dell'arte e capendo qual è stata la portata storica del loro, come dire, rivoluzioni linguistiche. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di arte contemporanea, di grandi eventi, di come renderla meglio comprensibile anche a chi non ha gli strumenti, diciamo, espressivi e magari chiede ancora l'assoluto. Allora a Danilo Ecker, che è il direttore della Galleria d'Arte Civica, Arte Moderna e Contemporanea di Torino, chiedo questo. Siccome mi pare evidente che qui mancano anche programmi, per così dire, continuativi di formazione, informazione, educazione verso le forme espressive dell'arte contemporanea, di questo secondo me continua a esserci carenza, sia esso il pubblico o il privato che le debba organizzare. Ha senso ancora non tanto occuparsi di una cosa come la Gamma, che va avanti da molto tempo, ha un grande magazzino di opere, quindi si può permettere anche di chiamare un direttore come lei, che ci ha spiegato prima, può levarsi degli sfizi nell'organizzare oggi ma riorganizzare domani percorsi interpretativi con tutto quello che ha in magazzino. Ma dico, ha senso in questa condizione in cui c'è un grande gap tra pochi che sanno e capiscono e la maggior parte che ancora non capisce bene, continuare in questa condizione a tentare di aprire grandi musei, grandi centri, penso al Maxi a Roma e così via, ha senso dal suo punto di vista? Ma io penso che la sua domanda sia esattamente anche la risposta, nel senso che se toglie il punto di domanda e mette il punto interrogativo e il punto, voglio dire, esclamativo, abbiamo risolto, perché in effetti l'Italia paga lo scotto di una latitanza sull'ambito dei musei, mentre gli altri paesi europei hanno sviluppato una politica museale sul moderno e sul contemporaneo già da moltissimi anni, da moltissimi decenni, e questo ha permesso ai vari paesi di consolidare un patrimonio, di rafforzare il mercato nazionale. Ecco perché tanti artisti italiani ancora oggi hanno un valore di mercato decisamente sottostimati rispetto ad altri colleghi stranieri. Noi abbiamo un sistema Italia che è buffo sotto certi profili, perché mentre noi abbiamo una grande tradizione di museografia storica, non l'abbiamo sull'ambito moderno e contemporaneo. E quindi paghiamo questo gap, inevitabile, il fatto che ci sia ancora oggi, da parte delle abbiamo sentito anche da parte di alcuni ascoltatori, certa perplessità o incomprensione o difficoltà di approccio all'arte moderna e contemporanea. Beh, questo è il segno evidente della mancanza di un anello di congiunzione fra quello che è la produzione artistica e quella che è invece il ricco mercato privato di gallerie e collezionisti, che in Italia ci sono a dei livelli altissimi. In Italia c'è un ottimo collezionismo, in Italia c'è un'ottima rete di gallerie private, manca proprio questo anello determinante che è l'anello museale. È su questo che io invito il Ministro, anche per colmare quelle sue incomprensioni, a finanziare adeguatamente le strutture museali. Ma poi ci avranno i soldi per acquisire questi musei che continuiamo? Lei pensa di sì, che li avranno le risorse per acquisire? Beh, guardi, è evidente che anche qui noi paghiamo un gap di decenni. L'altro giorno io ero a pranzo con il direttore della Reina Sofia, che abbiamo citato, e lui mi diceva che quest'anno avrà 13 milioni di euro per l'acquisizione. E insomma, e per un anno. Questo significa che più o meno gli standard di acquisizione dei grandi musei internazionali viaggiano su queste cifre, la Tecnia di più, via dicendo. noi su queste cifre non ci potremo nemmeno sognare, proprio, esatto. E questo spiega perché manca in Italia, per esempio, un museo del futurismo. Uno dei grandi movimenti del Novecento italiano, se uno vuole vedere i grandi capolavori futuristi, deve andare o a Parigi o a Londra o a New York. Quindi il fatto di aver azzerato, comunque non investito adeguatamente nell'ambito del patrimonio museale italiano, oggi sì che il mercato italiano sia debole rispetto a quello degli altri paesi europei. Quindi ne paghiamo alla fine le conseguenze tutti. Il fatto che il museo sia un centro di raccolta, un centro di studio, di ricerca ovviamente, ma anche un centro didattico, un centro di formazione, quello si può fare nel momento in cui il museo può innanzitutto incrementare il proprio patrimonio. Certamente. Occupiamoci ancora in questi ultimi pochissimi proprio minuti, due battute, una da Albanese e una Bellini sui galleristi, perché ce ne siamo occupati un po' proprio. Albanese, nella sua ricerca rabdomantica di opere che le piacevano, quanto ha contato l'evoluzione del gallerismo italiano? Io penso che mi si dice, anzi, che rispetto alle consolidate tradizioni dei grandi due, tre galleristi di Milano, per esempio oggi ce n'è un piccolo a Brescia molto intraprendente, uno a San Gimignano molto intraprendente, contano e fanno molto di più. Da questo punto di vista, come ha visto cambiare questo aspetto il gallerismo italiano? È indubbio che il gallerismo italiano è cresciuto veramente molto in questi ultimi 10 anni. Gallerie torinesi, come lei diceva, da San Gimignanesi piuttosto che milanesi, sono enormemente cresciute e si sono collocate anche in un, come dire, spazio internazionale con rispetto e anzi con attenzione da parte del mondo. Il gallerista, fra l'altro, è fondamentale per chi colleziona, perché proprio nella prima fase, quella dove si fanno le sperimentazioni, quelle che forse i suoi amici hanno fatto in cattivo modo, il gallerista invece è un eccellente trainer. Più del gallerista, però, insisto, si guardino i musei e si guardino le mostre e si vada alle fiere, perché c'è necessità di passione da un verso e di consuetudine dall'altro, come qualsiasi disciplina pretende che ci si informi e si sappia prima di affrontare un investimento. Il gallerista poi invece è quello che ti accompagna nella fase successiva, una volta che hai cominciato a sentire l'odore, è quello che può individuarti il taglio di carne di cui hai necessità per fare un buon brodo, insomma, se vuoi fare il brodo, altrimenti ti indica qualcos'altro. Bellini, se dovesse dire in una battuta che cosa ancora non è riuscito a fare in questo ambaradan che ha messo in piedi con Artissima Torino? Sì, volevo dire una cosa molto velocemente sulla bellezza di cui parlava l'assoluta bellezza, certo. L'assoluta bellezza. La bellezza è una categoria culturale, quindi cambia nel tempo, e quello che noi consideriamo oggi bello era considerato orribile ieri e sarà considerato orribile domani, per cui mi sembra veramente un modo sbagliato quello di porsi nei confronti dell'arte, perché esistono opere che magari possono apparire brutte secondo il senso comune, ma sono straordinarie. Certamente. Perché hanno poesia, dramma, eccetera. E per quello che riguarda i galleristi, non ci dimentichiamo che non li chiamiamo mai mercanti con atteggiamento così spregiativo, perché i galleristi hanno fatto la storia dell'arte del Novecento, ben prima che nascessero i musei d'arte moderna e contemporanea. Hanno sostenuto la ricerca, hanno fatto la storia dell'arte. Stanno tirando le orecchie perché le sto sforando, e quindi io le devo chiedere la prossima volta che cosa ci ripromettere di fare la prossima edizione di Artissima, ma questa intanto andiamo tutti a vederla. Io ringrazio Bellini, ringrazio Danilo Ecker, ringrazio Flavio Albanese, ringrazio anche Paolo Corleone in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione. La linea al giornale radio 9 in punto, la versione di Oscar.